Bentornati in ascolto su Radio Wombat. Bentornati e bentornate di nuovo da Mondeggi, fattoria senza padroni. Abbiamo qui accanto a noi Maddalena. Ciao. Ciao, buongiorno. E chi è sta è uscita adesso dal tavolo della formazione. Abbiamo già parlato abbiamo già anzi letto un'introduzione, l'abstract dei documenti che ci sono stati forniti, però vogliamo sentire dalla tua voce come sta andando, come sta procedendo il tavolo. Bene, dai, in linea di massima il tavolo è ben partecipato intendo che della maggior parte delle reti presenti, dei nodi di genomino clandestino presenti quest'anno c'è quasi un rappresentante per nodo, che è importantissimo per poi portare avanti il lavoro che verrà definito all'interno del tavolo, che forse verranno fra un po' chiamati gruppi di lavoro appunto per dare continuità nei propri territori. Quello che sta tentando di fare il tavolo di formazione, insomma, un po' riprendendo l'abstract, era stato mandato insomma una tabella che ogni nodo doveva compilare per manifestare le proprie competenze formative e i propri bisogni formativi. L'obiettivo è quello che stiamo sviluppando oggi, è di mettere in rete competenze e bisogni formativi per vedere di creare all'interno di genere clandestino innanzitutto una metodologia di mutuo aiuto, quindi reti vicine che hanno competenze diverse che si possano supportare nella parte formativa laddove c'è bisogno, e in parte anche poi a livello esterno, quindi reti vicine si possano supportare ma anche reti che possano portare all'esterno le proprie competenze per fare un po' di sensibilizzazione, di formazione su che cos'è genuino clandestino, su determinate tematiche e su quello che avviene. In questo momento siamo nella fase in cui dopo la condivisione delle competenze e dei bisogni formativi c'è la parte delle proposte, quindi realmente ogni rete, ogni nodo e genuino clandestino più in generale di che strumenti si può dotare e che cosa può fare. Sono venuti già fuori degli spunti che poi alla fine del tavolo vaglieremo un po' per vedere quali sono realmente fattibili e quali decidiamo di portare avanti quest'anno, perché ovviamente le singole persone sono già impegnatissime nei propri territori, quindi è inutile scegliere 8500 cose che poi non si riescono a portare avanti. Una volta fatto questo, ce ne puoi citare qualcuno? Esatto, una volta fatto questo, poi decisi quali l'assemblea o comunque le varie reti approveranno. Alcuni di questi posso, cioè alcune proposte che sono state fatte, raggruppare le competenze della tabella che è stata portata avanti, nel frattempo dietro di me sta crollando tutto, crolla la postazione. Raggruppare meglio nella tabella e continuare a farla circolare per mettere proprio in collegamento le competenze che ci sono e possibili formatori che danno la propria disponibilità di spostarsi nelle varie regioni. Un'altra molto interessante che credo faremo è un vademecum di cui si fa un po' portavoce la mercatiniera di Parma, che è un nodo di genuino clandestino, un vademecum su le leggi che ci sono sui liberi mercati, su come è possibile vendere, su come è possibile creare un mercato, quindi chiedere un pochino a tutte le regioni che regolamentazioni ci sono in atto, come riescono loro ad ottenere determinati mercati di un determinato tipo, eccetera. Altre cose che sono venute fuori è connettersi con tutti gli altri tavoli che poi vi verranno presentati, che ci sono in questo momento, come ad esempio il mutuo aiuto, ma anche i tavoli tecnici, l'apicoltura, l'allevamento, eccetera. Sì. E la comunicazione per migliorare tutto quello che la formazione può fare. La comunicazione può aiutare a diffondere determinate cose, a creare degli spazi. I tavoli tecnici possono, su mandato magari della formazione, poter creare dei vademecum o dei manuali, insomma, da poter poi diffondere sulle competenze, su come si fanno determinate cose. Altre robe che sono venute fuori è creare anche dei gruppi che possano condividere o darsi dei consigli reciprocamente su come fare delle cose. Ad esempio, c'è una ragazza che in questo momento si sente un po' sola perché cerca di fare dell'artigianato sostenibile, quindi tessuti biologici con tinture biologiche, e sta cercando, per fortuna almeno all'interno del tavolo formazione ha trovato altre già tre persone che fanno le stesse cose, con cui probabilmente poi si sentiranno per darsi dei consigli reciproci. Quindi un po' l'obiettivo della formazione è in questo momento mettere in connessione le competenze, gli sviluppi che ci sono, e nonché creare sensibilizzazione all'esterno anche del movimento. Assolutamente, quindi si tratta poi di si tratterà di redigere documenti, ma anche poi di recarsi personalmente sui vari luoghi. Per quanto riguarda i documenti, a quanto ne so, saranno anche disponibili? L'obiettivo e l'interconnessione col tavolo comunicazione è questo, è creare proprio uno spazio online, anche se non è sempre accessibile a tutti perché molti che vengono dalle reti sono distanti, non hanno connessione internet efficiente, però in questo momento la cosa più semplice è quello, sarà cercare uno spazio online in cui affinché questi documenti siano poi visibili a tutti, nel senso al di là di chi fa parte del nodo di genere clandestino, ma anche a tutta la popolazione, perché il genere clandestino non lavora solo per essere autoreferenziale a se stesso, ma affinché anche chi si interessa possa accedere a quello che viene prodotto. Sarà un lavoro lento, perché in questo momento non esiste ancora questo spazio. C'è un sito, ma non c'è uno spazio apposito dove mettere queste cose. Ecco, il sito, ricordiamolo, è quello di Genuino Clandestino. www.genuinoclandestino.org credo. Comunque dai, scrivete Genuino Clandestino e vedrete che non è che vi viene fuori poi chilometri di genuinoclandestino.noblogs.org. eccolo qua, mancava un pezzettino, mancava il noblogs. Va bene, allora noi ti rimandiamo al tavolo, poi grazie. Magari ci sentiamo alla fine per le conclusioni. Grazie mille, buona giornata a tutti. A te, buon proseguimento. Allora, buono. Intanto ringraziamo ancora Madda per il suo contributo e speriamo di risentirla per le conclusioni. Grande Lago. Arriveranno anche altre persone da altri tavoli, tutti interessantissimi. Però abbiamo ancora un po' di tempo, signori. Oggi è sabato, noi siamo rilassati. Andiamo piano. Senti là che musichina. Il venticello poi. Il venticello, sì, è vero, è arrivato il venticello che ci sta per portare via la postazione. Non mi si sente, eccolo. Abbiamo appena scoperto che il sole è nemico degli schermi. Non è perché l'abbiamo scoperto ora, ma è tutto molto difficile. Questa cosa me ne importa, però va bene. E cosa ci mandi? Facciamo un richiamino sul programma? Se non l'avete già. Un richiamino sul programma? Vai. Si può fare un richiamino sul programma, prego. Allora, adesso sono in corso i tavoli tematici. E poi, vabbè, 12.30 ci sarà il pranzo. 12.30 fino alle 14 più o meno il pranzo. Viva! Subito dopo il pranzo, di nuovo i tavoli tematici. E poi i tavoli tecnici, scusatemi. Sì. Lapsus. E mentre il corteo è previsto per le 17.30. Esatto, infatti tutti in San Marco. Rinnoviamo e quello, poi la cena in Santo Spirito alle 8.30. Vero, cena e musica in Santo Spirito. Penso che ci sia qualcuno a suonare, forse i fiati sprecati. Non c'è scritto, avevo c'è sentito scritto. Questa cosa qua. Al momento magari voci dicono. Magari una fake news. Palle sta fake news. Che palle sta fake news. Sempre esistite, sempre ci sono state. Esatto, allora non basta. Non li chiamiamo più fake news, li chiamiamo le stronzate. Esatto, chiamiamo le cose che sono. Probabilmente ho detto una stronzata. Potrei aver detto una stronzata. Visto il contesto, le chiamerei bufale. O le bufala, bufale. Esatto, ancora meglio. Ok, ascoltatori, ascoltatrici, a tra poco. Andiamo di musica? Di music. Via. Vai, Wombat. here for all so long. I get too tired of these same old songs. I'll change. I'll change, yeah. My doctor bends to his head and pray. But if we're reaching this all separately, through the fear. So, to you. Where's the love? I want it. Where's the love? I started. Where's the love? It's running away. Yeah, that's coming. up this morning at the end of another bottle. I don't know what's really going on. My hands are shaking, my head's reminding me that last night I must have had some fun. I've been here so many times, you get used to the pain. But I don't wanna play these self-destructive games. Once again I will say, today will be the day. Today, no, I'm gonna change. Locked inside another dark day, wondering just how I'm gonna turn my life around. Yeah. Eccoci tornati in diretta e siamo pronti per una nuova intervista. Devo dire, l'intervista ghiotta me la sono tenuta per me, perché si parla di marmellate, conserve e a quel punto Denever si avvicina al microfono. E allora, innanzitutto qui abbiamo Marco. Ciao Marco, ciao. Benvenuto. Marco, diciamo, ha seguito il tavolo delle libere trasformazioni, quindi tutto quello che riguarda la conservazione dei beni prodotti dalla nostra amata terra. E niente, raccontaci un po' com'è andata. E... Allora, è stato uno sviluppo parecchio interessante, anche grazie agli interventi del collettivo, dei compagni francesi che fanno parte del collettivo Contro le Norme, che è nato dal comitato Giustizia e Verità per Jérôme Laronce. E ci hanno riportato anche la loro esperienza in Francia, che è stata molto interessante. E diciamo che dal tavolo è venuto fuori l'importanza di fare corpo tutti insieme tramite la creazione di collettivi che si possano legare al tessuto sociale e tramite un fondamentale dialogo e con le realtà locali, quindi con la cittadinanza, con le persone che gravitano intorno alla realtà del mercato, con le singole realtà politiche ma anche non politiche, che vuol dire le istituzioni, però anche gli organismi, insomma, di controllo vari. Ti volevo fare una domanda, cioè giusto per approfondire. Libere trasformazioni perché? Perché se uno dovesse seguire tutte le regole per appunto per fare una conserva, tutte le regole imposte dalla legge, non ci riuscirebbe mai, non è una cosa a portata del semplice contadino. Esattamente, diciamo che da diversi anni a questa parte c'è un inasprirsi delle norme che permettono, diciamo, al piccolo produttore di trasformare i propri prodotti. Questo vuol dire norme che pretendono la creazione di laboratori piuttosto che acquisto di macchinari che sono, anche, proprio dal punto di vista economico, una spesa notevole per chi poi e ha un piccolo reddito dalle proprie produzioni e chi ci deve effettivamente campare. E per fare dei numeri, cioè anche solo un piccolo laboratorio comunque comporta una spesa che si aggira intorno a 10.000 euro e per una persona che comunque magari anche famiglia e deve integrare il proprio reddito in maniera sostanziale o proprio vivere della propria produzione, diventa una spesa e non si ferma solo a quello, cioè non è solo che quando uno ha fatto il laboratorio è a posto, sono mille spese in più e burocrazia che veramente vanno a schiacciare le piccole realtà. E un'altra riflessione, io pensando sempre a male, no? A volte questi sono dei cavilli messi lì di proposito, forse per avvantaggiare qualcun altro. Sì, sì. Cioè, facendo infatti... anche leva sulla... ormai si fa sempre leva sulla paura, no? Quindi c'è la paura della conserva fatta male che ti uccide. Esattamente, esattamente. Diciamo che a livello mediatico c'è stata anche lì una forte pressione per creare questo timore di fondo che, diciamo, il prodotto che esce dall'industria è sicuro, che il prodotto che si trova nei supermercati, essendo a norma, allora tutela il consumatore, e che invece ciò che viene dalla terra direttamente, come la filiera corta dal produttore al consumatore, io che trasformo direttamente nella mia piccola realtà e vendo a chi ho vicino, cioè non chilometri zero, stiamo parlando proprio di chi mi sta accanto, per cui quello invece viene etichettato come una cosa pirata, una cosa io definirei quasi a livello terroristico, viene presentata con magari una campagna mediatica fatta basata proprio sul inculcare nella gente la paura e la necessità di cercare la sicurezza in una agroindustria che però questa sicurezza non la dà, anzi. ci trovi il glifosato. Esatto. L'ultima delle uova qual era? Cosa avevano trovato nelle uova? Guarda, adesso vabbè, non ricordo, però non ricordo, ce n'era, sì, anche. Però se uno si mette, ce n'è. Quindi il tavolo per rispondere a tutte queste problematiche, poi ti lascio, guarda, andare. Grazie all'esperienza francese che ci ha dato un grosso contributo, e siamo venuti a capo che è veramente importante la creazione di un'organizzazione, di collettivi, che vuol dire creare un tessuto sociale all'interno della realtà mercato e anche esterno, cioè non mancare di cogliere l'occasione di dialogare con amministrazioni locali favorevoli. E ci sono stati alcuni esempi di compagni che l'hanno portato, la loro esperienza, in cui la singola amministrazione ha fatto un lavoro di apertura verso le piccole trasformazioni. Il problema è che, ad esempio, in Italia spesso le singole amministrazioni sono con le mani legate, perché si trovano a poter solo dare norme più restrittive rispetto a quelle che sono le linee guida nazionali o europee. E diciamo che ci salviamo che spesso, almeno in Italia, spesso le regioni sono le prime a andare un po' più lente sulla attuazione poi di norme che vengono emanate a livello nazionale. Però questo non vuol dire, cioè, non tutela, ovviamente non ci tutela, ecco, è solo una questione di tempo, e purtroppo tendono a voler schiacciare quelle che sono le piccole produzioni. Mentre parlavi pensavo a mia nonna che faceva le conserve di pomodori, sì. E in realtà anche ancora continuiamo a farle. È davvero un qualcosa di bello, di familiare, sì, invece non solo, criminalizzato. Non è solo una cosa, diciamo, che sta nella nostra storia come paese Italia, come tutti gli altri paesi, insomma, non è solo l'Italia, però c'è un'importanza di fondo sulla possibilità di autodeterminazione alimentare, la possibilità di creare con le proprie mani, il proprio lavoro, qualcosa che dà sostentamento. E questa è una cosa a tutto tondo, cioè non è solo io voglio fare le marmellate, io vorrei fare il mio vino in casa, vorrei fare i miei formaggi e non posso perché la legge me lo vieta. È proprio una questione che le leggi che vengono emanate, l'agroindustria preme affinché ci sia una dipendenza sempre più forte nei loro confronti, mentre è fondamentale, insomma, la possibilità dell'accesso alla terra e dell'autosostentamento. Vuol dire proprio togliere le basi di quello che è il nostro vivere quotidiano. Sì, sì. Cioè, no? Un frutto io non lo posso mangiare, esatto. Devo aspettare che passi attraverso, attraverso la filiera, arrivi filiera, imbustato in plastica nel supermercato. Per cui anche là c'è la questione dell'inquinamento. Comunque io voglio portare il mio prodotto anche ad altri, farlo conoscere, devo sottostare a norme che mi impongono di avere tot attrezzatura, tot consumo di banalmente gli imballaggi. Qua non stiamo parlando della sicurezza alimentare, perché io che faccio la marmellata, che io che faccio il mio trasformato, il vino, sono io il primo che le consumo. E quello saranno cazzi miei. Sì, ma non è un menefreghismo, è proprio sono io il primo che le consumo, quindi sono il primo che garantisco con la mia vita, perché ovvio che se mangio quello che consumo e ti faccio vedere la mia realtà, non ti sto nascondendo niente. Con la mia sola presenza ti garantisco, questo passa attraverso la conoscenza, e questa è anche la differenza, che uno con l'agroindustria non conosce, non è un contatto umano, cioè può leggere una bella pubblicità ma non conosce come anche un po' pensavo alle etichette, no? Sì. Cioè, poi alla fine sulle etichette sulle etichette dice tutto e dice niente. Adesso c'è molto appunto il mito del bio, della certificazione e finte garanzie che dà l'agroindustria, però alla fine sono solo dei prosciutto sugli occhi, se vogliamo, cioè tendono a sbandierare la possibilità di garantire al produttore un prodotto sano solo attraverso le procedure diciamo che previste dalla legge. Invece io piccolo produttore sono il primo a garantire, insomma, proprio appunto con la mia attività, e la persona che acquista da me lo può vedere. Mentre io vado in supermercato posso anche leggere una bella etichetta, posso anche leggere che è certificata, ma in realtà non so niente di quel prodotto che vado a mangiare. È molto importante, tornando alla difesa, diciamo, dei territori, il legame con tutte le realtà che ci circondano. E anche l'accesso alla terra è un'altra questione che è venuta fuori trasversalmente nel gruppo. E sì, e diciamo, basta ad esempio anche quello che è successo, il caso di Jérôme è significativo, perché ci deve mettere tutti in allarme su quella che è la volontà palese poi di... Ci spiego un po', ecco, perché approfondiamo. Cos'è successo a Jérôme? Jérôme è un allevatore francese che, diciamo, per come la vede la legge, si è permesso di alzare la testa e dire quello che gli stava, purtroppo perché non c'è più, però gli stava a cuore, e che in realtà sta a cuore a tutti noi, che è la possibilità di avere accesso alla terra, la possibilità di autodeterminarsi nel proprio reddito, nella propria attività, che è quello di non voler sottostare, di decidere di non voler sottostare a delle norme che veramente uccidono, perché basta pensare a un produttore come era Jérôme, di latticini, che faceva caseificazione, e la legge gli imponeva l'acquisto di macchinari, l'acquisto di locali, in norme con cui, diciamo, regolamentare la produzione. Ma uno dice, non è per la sicurezza, è proprio perché norme, difficoltà. Sì, erano norme che andavano a schiacciare economicamente in questo caso Jérôme l'ha subito. Una selezione economica, quasi. Sì, è una selezione economica, bravissimo. E Jérôme ha avuto il coraggio di dire no, io non ci sto. Però purtroppo, come abbiamo visto, e come sta succedendo sempre più anche in Italia, quella che è la repressione delle istituzioni si è fatta sentire pesantemente. E, per dire, come ci hanno raccontato i compagni francesi, a differenza dell'Italia, forse in Francia la situazione è ancora più grave dal punto di vista della repressione, cioè le istituzioni agiscono subito col pugno di ferro, non c'è molto spazio, margine per il dialogo. E proprio dal punto di vista pratico, banalmente, una delle prime ricatti che fanno è quella di togliere le fonti di sostentamento, ma proprio in maniera, io definirei, brutale, nel senso, vengono e sequestrano, se un gregge lo portano, cioè lo sequestrano, se è qualcosa di illegale, come magari un laboratorio, una norma, lo distruggono. E nel caso di Jérôme è successo, uno dei controlli, i primi controlli che ha subito, sono venuti proprio a sequestrargli il gregge mentre era al pascolo. E ad esempio, in quel caso il gregge ovviamente si è spaventato e fuggito, e là anche gli stessi animali sono morti, alcuni, perché nella fuga alcuni sono finiti nel canale, sono affogati. Quindi non è che, uno dice, non è che alle istituzioni interessa il benessere animale o interessa il benessere della salute delle persone. L'istituzione interessa che la legge venga applicata, e la legge spesso va proprio col pugno di ferro a schiacciare le piccole realtà. Purtroppo Jérôme alla fine ha pagato con la vita il prezzo di questa sua scelta di voler lottare. Durante l'ultimo controllo, l'ultima diciamo retata che ha subito, se possiamo definire così, gli hanno sparato, perché lui è fuggito, siccome comunque gli avevano fatto pressioni molto forti, rischiava già veramente grosso, però nessuno immaginava si arrivasse a questo punto. E lui è fuggito ed è stato giustiziato, perché io parlerei proprio di omicidio di Stato. E la versione ufficiale ovviamente è diversa, cioè parla che Jerome è stato lui ad attaccare, però non è, insomma, proprio da rimanere senza parole, sì, devo dire, sì. Quindi niente, l'obiettivo delle istituzioni è quello di applicare la legge alla cieca, sì. La legge viene fatta, sì, più che altro per gli interessi economici, per chi ha il potere per farsi creare le leggi, e noi ne rimaniamo schiacciati, noi piccoli produttori, sì, noi piccoli consumatori. E l'unica, appunto, è fare rete e dialogare con chi nelle istituzioni ancora ha la sensibilità di farlo. Perfetto, grazie ancora Marco. Grazie mille a voi. Ciao. Ciao. Bene, ringraziamo. Grazie mille, e fra l'altro colgo l'occasione per dire che ci sarà l'intervista completa a queste persone che sono venute dalla Francia più avanti nel corso della giornata. Adesso mandiamo una canzone, direi, e poi torniamo subito qua con un altro tavolo che presenterà il loro lavoro. Eccoci. Eccoci, di ritorno di nuovo. Quindi abbiamo visto che la storia è abbastanza dura di Jerome, abbiamo, sì, sentito, e abbiamo capito che fare rete è importante, non rimanere solo. Esatto, per, rimanere per supportarsi a vicenda nel momento, subito nel momento del bisogno, e poi per raccontare anche un po' queste storie, perché c'è bisogno. Quindi possiamo proprio passare al prossimo tavolo tematico. Prego. Che è appunto che è quello del mutuo aiuto, che è mutuo aiuto su vari aspetti, abbiamo visto, non solo semplicemente appunto aiutare qualcuno che è in difficoltà, non ha abbastanza forze per prendersi cura del proprio campo, ma anche distribuire competenze e saperi alla maniera hacker, è la teoria hacker. Esatto, che poi alla fine hacker voleva dire colui che si fa tutte le cose, certo, con l'ascia, quindi do it yourself, do si it facevano i mobili a colpi d'ascia. Allora passiamo ora il nostro referente per il gruppo di mutuo aiuto, che è Noè, e poi c'è anche Papavero che interverrà anche con noi. E niente, appunto abbiamo visto, io ragazzi continuo ad avere una mentalità televisiva, sono alla radio e va parlo di vedere, va benissimo. È un problema, vabbè, basta che descrivi quello descrivo. Allora, quindi per Jerome è stato un problema rimanere solo e quindi sarebbe stato bello, forse l'ha ricevuto un mutuo aiuto, però forse in quel momento era da solo. E appunto nel tavolo tematico, come è iniziato l'argomento, come... dici un po', Noè, faccio una sintesi. Allora, abbiamo iniziato appunto scambiando le varie esperienze di mutuo aiuto, di necessità, di come sono state risolte, di come si è tentato di fare un sistema di mutuo aiuto e come funziona, come non funziona. Beh, io, per fare la domanda praticona, come sono io, in sintesi, che cosa può essere un aiuto? Un mutuo aiuto è può essere... quando si va alla raccolta e quindi serve tanta manodopera, ma può essere anche per lavori straordinari, tipo tirare su un pollaio, tirare su un fienile. E però, essendo che il nostro è un genuino ma clandestino, è anche un mutuo aiuto per difendere le nostre terre, e quindi un aiuto di lotta e di divulgazione anche delle conoscenze. Uno non è necessario che venga a casa tua per aiutarti, può aiutarti anche da casa sua, facendo conoscere che questa lotta è presente. Ok, quindi diffondendo l'idea di altre realtà resistenti. Certo, diciamo che il mutuo aiuto è il non essere soli. E quindi per... solidarietà è una esatto, parola... Esatto, per solidarietà e per sentirsi uniti, perché comunque si sente... un distacco dal resto del nazionale, perché comunque è grande ed è difficile percepirlo e coglierlo. Certo. E appunto con le distanze come si fa a gestire il mutuo aiuto? Ad esempio l'esempio di mutuo aiuto pratico che mi viene adesso è la vostra presenza qui da tutta Italia per il corteo a sostegno di Mondeggi. Però non sempre puoi fare queste distanze, quindi si gioca sul locale anche. Sì, si gioca molto sul locale, la maggior parte delle esperienze passate sono appunto locali, quindi collaborazioni nel coltivare campi di grano comuni, oppure collaborazioni per varie raccolte, più raccolte manifestazioni, quindi no, l'unirsi per difendere il diritto alla raccolta. E però... queste enormi distanze, come adesso che ci troviamo qua da tutta Italia, vengono appunto la necessità e organizzarsi su momenti in cui tutti si trovano nello stesso posto e quindi uno è più motivato a muoversi, perché quello che necessita è un'organizzazione, un calendario e dire boh, questa settimana ci troviamo tutti ad aiutare Tizio, questa settimana ci troviamo tutti ad aiutare Caio. E quindi si riesce a creare un movimento omogeneo. E quindi lo spostarsi non è più ognuno si sposta da solo, ma si sposta in gruppo. E quindi le spese sono minori e tutto più facile. Bene, bene. Papavero, invece ora devo passarti il microfono in modo magico oppure ti avvicini? Vorrei prima che tu... Dimmi. fai domande, dare un ringraziamento a questi ragazzi di questa radio, di cui penso fai parte pure tu, non ho ancora imparato bene il nome. E, grazie di cuore per, secondo me, questo io lo chiamerei il banco della gioia, non della radio, è in secondo tempo che si vede. Quindi sentire di voi, dire dalle genti in questo luogo un bene, porta a dire questo, cioè il mio intervento era qui perché pare che io parlo di cuore e di fiori. Questa è una delle più grandi storie d'amore che ci sia stata dal 78, perché io sono di quel tempo. Ci dobbiamo credere e in una giornata come questa, secondo me, questo spazio che i compagni mi hanno pregato di prendere, io vorrei solo dire che non ci dobbiamo preoccupare sui modi e sui come, cioè mutuo aiuto è una parola che io personalmente magari non uso perché io parlo di fratellanza, però non ne facciamo un fatto di linguaggi o di solidarietà come dice il caro compagno. Quindi l'importante è comprendere che tutto è amore, questa è una storia d'amore, quindi avere un pensiero a queste genti non vuol dire venire per la 3 giorni, partecipare, mangiare di questo buon cibo, vuol dire avere un pensiero a questa terra, a questi figli, a questi fratelli, che quotidiana, giornaliera, che quindi questa diventi una pratica della nostra vita, laddove mi sembra di capire che in questo momento tutti ci lamentiamo e siamo stanchi, quindi io non voglio deridere nessuno, cioè, però non si può continuare a dire che siamo stanchi e abbiamo tante cose da fare. Col tempo che abbiamo, ripeto, è solo un pensiero d'amore, insieme ce la facciamo, da soli non ce la fa nessuno. Quindi è grazie a questo tavolo della gioia che ci permette di dire facciamo ci conoscere, portiamo la buona novella, diceva Fabrizio, no? Ci sono ragazzi che riescono a fare contatto diretto, io non soltanto per internet, con la radio, si fanno arcobaleno che unisce cielo e terra. Guagliù, questa è una storia d'amore, balliamo, va? Balliamo perché l'unica possibilità che abbiamo è amare, e amare vuol dire mutuo soccorso, poi ognuno si scelga le sue parole. Ci siamo ripigliati tutto quello che conosco. Ci siamo ripigliati tutto quello che abbiamo perso e soprattutto ribelliamoci. Viva. Con amore ribelliamoci. Viva! Grande, grande, grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Mi dispiace il bacio della mano. Opla, ci siamo? Ci siamo, sì sì, eccoci qua. Abbiamo dei disturbatori che hanno disturbato, si mettono a interferire con i loro sguardi. E passiamo al nuovo tavolo tematico, che è quello sui nuovi sfruttamenti. Quindi il tavolo precedente, alla fine la parola era la solidarietà, però c'è qualcosa che mette a rischio la solidarietà fra di noi, appunto sono i vecchi e i nuovi sfruttamenti. A raccontarci un po' cosa è successo a questo tavolo della solidarietà c'è Martina. Ciao, benvenuta. Ciao. E l'argomento, mi ricollego un po' anche al tavolo delle libere trasformazioni di cui parlavamo prima con Marco, e si parlava appunto anche del fatto che la grande distribuzione obbliga a consumare cibi che siano stati trasportati per chilometri, che siano stati imbustati, che siano stati raccolti a bassissimo costo. È un modello che implica per forza lo sfruttamento di qualcuno. Sì. Dimmi un po' cosa hai messo in... Il tavolo Nuovi Schiavismi, appunto, è la seconda volta che si... Ho sbagliato il nome, allora, Nuovi Schiavismi. Va bene, comunque, basta che ci si capisce. Il tavolo Nuovi Schiavismi è la seconda volta che si riunisce e un po' all'inizio si dava per scontato che si dovesse parlare di default automaticamente di migranti, ma in realtà, appunto, come un po' stavi accennando... Abbiamo fatto il pit stop cibo, esatto, perché l'orario è quello. Quindi, come stavi accennando, in realtà presto ci si è spostati sul il concetto, appunto, l'analisi dello sfruttamento in generale o quali sono i nessi tra i vari schiavismi. E un'altra cosa un po' che è emersa da subito è che è uno dei pochi tavoli, e questa è anche una cosa che un po' ci contraddistingue, che ragiona su quello che non ci piace, quindi come esprimere, come rompere anche con nostre parole rispetto a qualcosa che non ci piace, e come è organizzato il lavoro, come è organizzato un certo tipo di produzione, e non un tavolo che ragiona sull'auto-organizzazione, su come costruiamo l'alternativa. Quindi è un tavolo che ha l'obiettivo di capire quali sono i nessi tra il lavoratore che è ormai nell'immaginario comune, lavora africano, che lavora in campagna, è quello che noi pratichiamo ogni giorno, e quindi qual è il modello, il nemico comune, quindi non un approccio assistenzialista, e quindi cercare di capire come aiutare l'altro. Quindi si è detto un po' delle parole che tornavano nel rompere la dicotomia noi-loro, però allo stesso tempo riassumere nel senso che il loro è trovare il nemico comune in questo senso. Un'altra un po' cosa che è emersa è che siamo abbastanza basati sui ragionamenti su, per esempio, la garanzia partecipata, riscrivere le nostre regole. Quando parliamo di sfruttamento, per esempio in campagna, invece lì il ragionamento un po' è più atrofizzato, perché c'è la legge contro il caporalato, ma in che modo quel tipo di regole ci rappresenta? Che tipo di aziende riescono a... sono le aziende virtuose secondo quel modello? Quindi che anche in questo è da riscrivere... sono da riscrivere le nostre regole, quindi i nostri strumenti da proporre, che sì, sono anche lì l'autogestione, ma allo stesso tempo il mondo delle certificazioni. Adesso sta proliferando un mondo di nuove regole che che chi le scrive sono gli unici che riescono a rispettarle, quindi la Coppa è la prima della classe nel promuovere campagne, la campagna Buoni e Giusti, o ad essere promotrice anche sostenitrice degli strumenti statali come la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, che è una cosa che la Coppa promuove. Se tu vuoi essere fornitore nostro in questa campagna speciale di rispetto ai diritti, devi entrare nella Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, che è un'impostazione che non ci rappresenta. E quindi su questo si è detto di porre le basi proprio per un ragionamento non nuovo, ma fermarci un attimo a riflettere su quali sono i nostri argomenti e non darli per scontati, perché per quanto è importante che ci sia sto tavolo, perché qualche anno fa magari anche in ambienti, cioè, non se ne parlava nemmeno del lavoro inteso in questo senso, quindi è importante che ci sia, però forse c'è bisogno di ragionare insieme. Adesso riporteremo in assemblea plenaria questo tipo di esigenza di trovare nessi e nemici comuni che possono essere trasversali tra sfruttati in varie situazioni. Sì, no, e mentre parlavi pensavo al fatto appunto Buoni e Giusti, com'era, sì, la campagna. La campagna della Coppa si chiama Buoni e Giusti. Che poi sono tutte cose che nascono più che altro da... che poi alla fine non è sbagliato, però non è sbagliato a priori. Nascono da più che altro bisogno di vendersi bene, cioè roba di marketing. Certo. Non gliene frega da un lato può essere uno strumento per noi, per noi consumatori, richiedere che appunto il prodotto che andiamo a consumare sia buono e giusto. Dall'altro nessuno ci dice se davvero poi dietro, cioè si rischia che sia appunto solo una bella grafica, delle belle etichette, e a me viene da pensare, dai nostri accenti si capisce che, che non siamo propriamente fiorentini, mi viene da pensare a quello che succede nelle serre di Pachino. Sì. Dove non credo ci sia un solo pomodoro che sia raccolto in modo buono e giusto, cioè gente sfruttata in serre con temperature allucinanti, paghe allucinanti, e spesso la legge del caporalato in genere è utilizzata più che altro come strumento di ripicca fra aziende in concorrenza fra di loro. Non è una domanda, è più In realtà il punto è che, cioè, è vero che è difficile capire poi, per esempio, i fornitori, c'è, cioè, la trasparenza in sostanza anche di chi promuove queste campagne, però per esempio un po' da contatti, diciamo, che abbiamo sul campo, sul territorio, è pure vero che, cioè, la Coop o la grande distribuzione che si scrive le regole, è pure vero che forse anche è più brava a rispettarle, ma per noi non è quello il punto, perché il punto è che dove c'è grande distribuzione organizzata, per quindi definizione dove c'è sfruttamento e quindi è... Che se non è lo sfruttamento sul campo è lo sfruttamento di chi fa la logistica, no? Abbiamo visto negli anni passati tutti i proteste. Sì, chiaramente, quindi porre l'accento su quello, quindi che magari saranno bravi anche, cioè quello che ci raccontarono sempre in quella zona è che la Coop fa controlli a volte più a fondo che lo Stato, e quindi, cioè nel senso, e quindi noi siamo a favore della campagna Buoni Giusti. Boh, parliamone intanto, cioè nel senso del nostro, di quello che è uscito anche dal tavolo, è che no, bisogna porre l'accento sul modello produttivo e farsi due domande anche su come riscrivere rispetto al modello alternativo che proponiamo le nostre regole e le nostre parole anche su questo argomento, e non lasciarle a chi ha più mezzi per prenderci anche la gran cassa per farle suonare bene a tutto volume, mentre noi ci azzittisce. Grazie mille Martina, grazie, buon lavoro, voi. Ci sentiamo magari più tardi. Ciao. Ciao, ciao. Com'è? Problemi tecnici, si è spento un attimo il computer per surriscaldamento, pare. Wow, effettivamente ragazzi, qui abbiamo una bella temperatura, inizia a essere impegnativo. Ora, il venticello di cui decantavo le lodi prima mi sa che ci ha abbandonato. e di questo ne fa le spese... Il nostro la strumentazione, il nostro amato computer. Beh, intanto allora ne approfitto per descrivervi quello che stiamo vedendo. Sotto questo bel sole abbiamo grande partecipazione. In questo momento vediamo il tavolo, abbiamo qui vicino il tavolo del mutuo aiuto, che sta preparando, credo, un disegno per sintetizzare tutto quello che è, a cui sono arrivati, E la cucina invece si prepara il pranzo, pare. Esatto, si prepara tra l'altro il pranzo. La cucina, stavo dicendo, infatti è in fibrillazione. In fibrillazione. E anche la mia pancia, devo dire. Anch'io. Direi anch'io. Anche perché io, coerentemente, non come qualcun altro, sono venuto in bici. Bravo. Ma lui in punta di pedale. Gli si è rotta. Oh, non sapevo. C'è la backstory, come dire. Ah, ecco. Quindi è in punta di pedale spuntato. Infatti... latita, non lo vedo qui. È scappato, si è nascosto. Va bene, andiamo di canzone. Sì, dai, una poi canzoncina per... vi riaggiorniamo. Non sappiamo se andiamo in pausa pranzo o se facciamo qualcos'altro. Però... io sono per la pausa pranzo. Anch'io. Però buone. Sentiremo. Vediamo. A dopo. Wombat.